dire. Nella prefazione ad Albero amico di Minoud Rouet, René Juillard racconta come ha ricevuto le poesie raccolte nel libro e come ha saputo dell'età dell'autrice. Se le era ritrovate fra le mani 2 anni prima, nel 1955, allorché Minoud Rouet aveva 8 anni. Qualche mese fa avevo notato sul Corriere della Sera un'intervista al direttore d'orchestra Carlo Maria Giulini. L'avevo notata perché fra il detto e il non detto vi risaltava un'analogia, quella fra il giudizio sulla propria storia e il giudizio sull'evoluzione della musica. Lui troncava la propria carriera e la musica stessa veniva da lui considerata priva di futuro, finita, praticamente conclusa in quanto creazione e destinata a rimanere al mondo soltanto in quanto esecuzione. Una recente lettera di Guido Ceronetti al medesimo Corriere me l'ha rimessa in mente. Sono andato a recuperarla fra i miei ritagli e ho potuto constatare che già nei titoli, oltre ai perentori concetti espressi, era dichiarata l'età del maestro. Il grande direttore, 87 anni, parla del proprio ritiro dalla scena, dei colleghi, degli allievi. Ceronetti scrive al Corriere. Scrive al Corriere perché, ritenendosi sulle prime vittime di un incidente, gli tocca poi rendersi conto che proprio di un incidente non si trattava. Viene a Milano a mettere in scena il suo Ceronetti Circus e, dandone la notizia, un giornale gli attribuisce 84 anni. Lui di anni ne ha 74 e la vicenda potrebbe anche finire lì. Se non che si rende altresì conto che il caso occorso gli non è isolato, tanto da rilevare lo strano vizio di tutti i giornali italiani di associare nei titoli e nei sottotitoli l'età vera o accresciuta di chiunque abbia impiegato i suoi molti giorni a scrivere libri o a pubblicare, oppure nello spettacolo e nella musica. Se non che a tale consapevolezza si aggiungono due corollari. Il primo dice che tale denuncia anagrafica non ha più corso quando si tratta di politici o di famosi campioni. Fatta la debita eccezione di quella particolare forma letteraria detta giornalisticamente coccodrillo, costituita dai necrologi. Un'eccezione in grazia della quale, nota Ceronetti, i Nobel della letteratura sarebbero gravati di età, ma non così i Nobel delle scienze o della pace. Il secondo corollario dice che l'errore, quando c'è, come nel suo caso, è sempre sul più e mai sul meno. L'insieme di questi fatti viene spiegato da Ceronetti sostanzialmente con due tesi correlate. L'errore tende a maggiorare l'età del malcapitato e non a diminuirla a causa di quella patologia giornalistica che consiste nella smania di anticipare i fatti. E il giornale, dice Ceronetti, bleffa strepitosamente sul futuro perché ha la durata di quel giorno e nelle redazioni esce oggi, si riferisce a notizia o commento dell'indomani. Sono due tesi, a mio avviso corrette. Due tesi che, come rileva Ceronetti medesimo, rimettono la faccenda a questioni di costumi, ma, ahimè, non spiegano nella consapevolezza di chi le sostiene il diverso trattamento riservato dai giornali a letterati e artisti. Artisti da una parte, letterati e artisti da una parte, politici dall'altra. Gli anni attribuiti incautamente a Ceronetti sono 84. Fra parentesi, esattamente quanti gli anni che ho recentemente attribuito a un tale, né letterato né artista, che ha massacrato la moglie a martellate perché il caffè faceva schifo. Glieli avevo attribuiti perché attribuiti gli erano stati dai titoli dei giornali, giusto la settimana scorsa. Dunque, l'attribuzione dell'età non riguarda soltanto letterati e artisti. Ecco, da qui si può partire per estendere le tesi di Ceronetti rendendole più comprensive, nonché una volta tanto, trattandosi di un pensatore mai tenero né con se stesso né con il proprio prossimo, meno ottimistiche. La faccenda non riguarda soltanto i mores, i costumi, o meglio, riguarda i costumi nella misura in cui questi sono escogitati e messi sulla scena sociale da processi di valorizzazione, condivisi consapevolmente o inconsapevolmente da chi li produce e chi li consuma. L'età viene aggiunta alla notizia perché, alla luce di quel sistema ideologico di cui giornalista e giornale fanno parte, costituisce una differenza nel paradigma implicito assegnato alla persona di cui si parla o all'intera categoria di persone che questa persona esemplarmente rappresenta. La tendenza non può che essere al rialzo. E a rialzo perché si valorizza, ovvero si investe di specificità, tanto da essere meritevole di notizia, l'età più alta per valorizzare, quasi per convezione, per usare un termine da termodinamica, per valorizzare ciò che a quell'età viene fatto. Nel borsino del regime ideologico quotidiano, Minou Drouet valeva di più perché era poetessa e perché era poetessa a 8 anni. Il maestro Giulini valeva un'intervista anche perché il maestro diceva le cose che diceva a 87 anni. L'assassino estetologo del caffè valeva di più di altri assassini anche perché riusciva ad usare il martello contro la moglie a 84 anni. E Ceronetti che recita nel suo Circus, vale di più se ha 84 anni che se ne ha 74. Più la differenza dai paradigmi consacrati è grossa, più vale la notizia. È puro mercato. Rimane da spiegare perché queste leggi mercantili non si applichino, o si applichino più raramente, ai politici e agli scienziati, o meglio a quegli scienziati che ad un dato momento della loro parabola pubblica abbiano smesso il camice bianco, diciamo così, per cercarsi un posto in un Parlamento, in una giuria di Miss Italia o sul palcoscenico di un festival di Sanremo. Ma la cosa, dal mio punto di vista, è semplicissima. Di quali abilità, mi domando, è costellato il paradigma dell'uomo politico? Di quali abilità, dico, sulle quali non si sia abituati a stenderci un velo sopra? Praticamente di nessuna. Nell'esercizio delle sue funzioni, tutto ciò che gli può venire ascritto non costituisce valore se portato a termine ad un'età piuttosto che ad un'altra. Se attraversa la manica a nuoto, invece costituisce una dose che l'età, se avanzata, non potrà che far lievitare. Così lo scienziato, le cui abilità stanno nello statuto ontologico senza modificazione di sorta fino al punto in cui di fatto non fa più lo scienziato. Il valore nasce sempre da un rapporto e il valore giornalistico nasce, da un rapporto imprevisto o almeno venduto come tale. Nella stessa pagina in cui il Corriere pubblicava la lettera di Ceronetti, Giorgio Soavi raccontava di un libro recentemente dedicato al disegnatore Giuseppe Novello e ne estrapolava due vignette. Una la conoscevo già perché giusto era stata pubblicata 2 settimane prima nell'inserto domenicale del Sole 24 Ore. Allora, ve la descrivo. Vi si rappresenta l'interno di una biblioteca. Un signore con un libro in mano in cima ad una scala. Lunghi e alti scaffali zeppi di libri. In primo piano 2 signori pensosi, di cui uno seduto chino su un tavolo fra schedari, buste e carte, è particolarmente afflitto. Sta dicendo: ma purtroppo 2 lettere del 32 dove il poeta parla dei suoi disturbi intestinali sono andate perdute. Tutto qui. Si sorride, forse si ride. Tuttavia, anche qui è questione di paradigmi e di valori. Darwin, almeno dal retta ai suoi diari, era malato un giorno sì e uno forse no. Einstein aveva qualche problema circolatorio al basso ventre, Paganini soffriva di una noiosissima forma di priapismo, Freud aveva un tumore alla mascella, Orwell ha scritto 1984 avendo dentro quella tubercolosi polmonare che lo porterà alla tomba, e Minudrue ha scritto le sue prime poesie sotto il gravame di uno strabismo dal quale sarà liberata presto a Lione dal professor Pofik. Ma nessuno di noi si è fatto un'opinione di costoro in rapporto a quanto sto dicendo. Certi elementi della vita di una persona sono considerati ininfluenti sull'attività per la quale quella persona viene a far parte delle notorietà di un'epoca. Ininfluenti fino a quando qualcuno non li investe di un rapporto di causa e di effetto con l'attività in questione e con i suoi risultati. È allora che il paradigma cambia a seconda dello stile di pensiero di una collettività. Delle vignette di Novello, infatti, si rideva più un tempo di quanto non si faccia oggi.